sai cosa c'è? C'è che ti odio. Io ti odio, io ti odio, io ti odio, io ti odio, io ti odio. L'arsura dell'odio che rende pallide le Danaidi quando uccidono durante la prima notte di nozze i loro mariti. E l'arsura dell'odio che le rende pallide e poi dell'incombenza della morte che le fa rimanere tali. Perché tutte arse dall'odio, tranne una, Ipermestra, che risparmiò suo marito Linceo. Ma da odio viene odio e poi vendetta. E Linceo vendicò i suoi 49 fratelli, uccidendo tutte le Danaidi, tranne la sua sposa, che lo lasciò vivere. Le furie omicide furono condannate agli inferi, ad attingere continuamente acqua con anfore senza fondo. Tutte tranne una, quella che resistette all'arsura dell'odio. Non è forse l'odio? Nella botte dell'odio di Baudelaire, un ubriacone che sente la sete imperterrita rinascere come un'idra alle sue teste. L'odio è una botte che il demonio continua a bucare, rendendole impossibile raggiungere l'orlo, rendendo vana la speranza di colmarla, di calmare questo richiamo, questo inesauribile ciclo di rabbia, rancore, impotenza, aggressività, frustrazione. È una corsa senza fine. Basterebbe non giungere mai alla partenza. Un'imprevedibile tendenza all'azione. Finisci prima di cenare. Non vorrei farti andare niente di traverso. Non vorrei che si sporcasse la tovaglia immacolata o la camicetta. Non vorrei che niente andasse di traverso. Vorrei scappare. E invece rimango. Devo. Se rimango mi tremano le mani e non mi riconosco. Se ne di lacrime sono di rabbia. E che mi reprimo è questo che fa più male. Se vedi lacrime, se vedi che tremo, se vedi che non riesco a parlare, vorrei scappare, ma rimango e non riesco ad aspettare che tu finisca di cenare. Qualcosa andrà storto, qualcosa ti affogherà. Sono io la puttana, la pazza, io sono la rabbia. Come si fa? Come si fa ad avere così tanta rabbia dentro? Perché mi si costringe ad odiare? Decido che aspetto che tu finisca di cenare. Aspetto, sai cosa? C'è così tanta rabbia dentro che quasi non sento niente. Non si sente niente. Non ci sente più niente. Un poeta francese, ormai morto, mi ha detto una volta: l'odio è un liquore prezioso, un veleno più caro di quello dei Borgia, perché è fatto con il nostro sangue, la nostra salute, il nostro sonno e due terzi del nostro amore. Bisogna esserne avari. Aspetta, sai cosa? E che forse aveva ragione. Non ti meriti il mio odio. Thank you. Il ragazzo era solo nella sua stanza, studiava. Ad un tratto apparve innanzi a lui un uomo alto e tenebroso, vestito di bianco. Ciao, ragazzo. Sono colui che stavi aspettando. Non sei stanco della vita piena di responsabilità e di doveri e di compiti, di interrogazioni, di proibizionismi, di umiliazioni? Diventa amico mio, facciamo un contratto ed io ti offrirò tutto ciò che dal mondo hai sempre desiderato. Donne, ricchezza, fama. Chi sei tu? Cosa vuoi da me? Io ho già trovato quello che desidero nella mia società. Sesso, libertà di ogni tipo, sbandamenti senza fine. E poi non mi fai paura, sai? Oggi sono tutti più cattivi di te, almeno il doppio. Sei passato di moda ormai, vecchio. E il diavolo pianse. Anime perse nella notte. Siete i benvenuti a questa puntata di Radio Rho di notte, un po' mistica per certi versi, un po' forse anche luciferina. Perché quanti di noi hanno preso il contatto con il proprio lato oscuro? Secondo me tutti noi abbiamo dei desideri impronunciabili. Abbiamo quei momenti della vita in cui ci rendiamo conto che c'è qualcosa dentro di noi, c'è uno spirito ancestrale, non so se è proprio uno spirito, diciamo che è sicuramente il nostro lato più animale che ci suggerisce un istinto alla violenza, un istinto al sangue, una ricerca di ecco, di cattiveria, come la volontà di ribellarsi alla legge di un Dio che altri hanno scelto per noi. E poi c'è il rapporto con la morte, con la nostra morte e con quella degli altri. Ecco, tutto questo fa parte di un rapporto con il proprio lato oscuro, che di tanto in tanto viene a galla e si fa sentire. Scusate, bevo un po' d'acqua. E quando si fa sentire, noi generalmente non riusciamo a dirgli veramente di no. Quello che possiamo provare a fare è cercare di tenerlo buono, ma sappiamo che lui è dentro di noi. Notte lunga, di scuro e tenebroso manto, di forti temporali, di gelidi saluti e di gelide mani. Notte che profuma di pioggia e vittime nuove. Ignare ed indifese? Forse sì, tanto quanto seducenti e vogliose lolite, di fascino prive, di vite fallite. Notte tanto lunga che sbadiglia e si dilegua. Con le prime luci lascia un grosso peso al cuore. Tra il carnefice e la vittima questa notte lascia pure una domanda. Se il carnefice è carnefice, perché mai la vittima fra le sue braccia giace? A quanti di noi piace giocare alla seduzione. Quanti di noi giocano al peccato? Giocano alla malizia? Giocano. Giocano e basta, però. Dietro un PC. Oppure alla tastiera del proprio telefonino. Ci sono un sacco di persone veramente capaci di scrivere e dire cose molto forti, capaci di essere provocanti, capaci di sfidare il senso comune del pudore. Questa è una cosa bellissima, se però fosse sincera. E invece, tante volte, chi gioca troppo alla seduzione spesso finisce col rivelarsi totalmente indifeso di fronte alla sessualità altrui, o addirittura nei confronti della propria sessualità. E allora mi chiedo, che motivo c'è di giocare alla seduzione? Tanto vale essere sinceri, no? Ma cosa dico? La sincerità oggi la notte che mi tiene fra le braccia, madre affettuosa forse, dolce compagna, notte di passione, di insolito rumore, come l'alito d'un demone che ti respira accanto. La notte è lunga, è buia, è fredda e silenziosa, come lo specchio dell'anima mia, notte assassina. Fuoco, sul fuoco del mio letto. Tende gli artigli e graffia dietro la porta, perché tu non dorma sentendo il suo rumore, perché tu non sogni, perché quello dei giusti è il sonno di chi è già morto. La notte che ti prende per la mano, che ti aiuta, che ti scalda. Cosa mai potrà mostrarmi questo specchio, quando ormai più non mi rifletto? Dormi, anima in pena, dormi e frena il tuo respiro, che la notte ti sorveglia e il suo alito su te già posa. Se senti un'altra presenza e il tuo cuore batte forte nel buio, non devi preoccuparti. Finalmente stai toccando il fondo della tua essenza, e quello che senti è il tuo spirito che urla. Ascoltami. Ascoltami. Ora dimmi, proprio tu che stai ascoltando in questo momento questa radio e che ascolti la mia voce. Ascolti mai veramente la voce del tuo spirito? La bestia fu libera di correre, ma rimase ferma, sotto lo sguardo incredulo di tutti i presenti. Agitato e convulso fu il richiamo del disperato matador, che riecheggiava sotto il sole cocente. «Haka, toro! Haka!» Mentre null'altro si muoveva nell'arena, se non il manto rosso del carnefice. La bestia lo guardava con lo sguardo fisso, sbuffando aria umida e calda dal possente naso. «Povero, piccolo uomo, morirò per te, a costo che tu la smetta di pronunciare queste inutili frasi. La tua voce è un insulto per le mie orecchie. La tua spada nascosta è un insulto per la mia intelligenza. I tuoi gesti sono un insulto alla tua stessa intelligenza. E questa arena è un insulto al creatore di ogni cosa e alla madre terra. Vuoi uccidermi, vero? Sei davvero convinto della tua superiorità, ma non ti rendi conto che basterebbe un mio piccolo accenno di furiosa rabbia per trafiggerti e lanciarti come fossi un piccolo bastone? Sei davvero convinto che sarei tu ad uccidere me, ma non hai ancora capito che sono io a trafiggermi con la tua spada? Io, stanco di vivere in catene, io, stanco d'essere insultato e deriso, io, stanco di perdere i miei compagni, io, stanco di essere stanco. Io trovo la morte nella tua bieca ignoranza. Io decido il momento esatto. Io decido il punto del mio corpo da sacrificare. Io decido di versare sangue su questa rossa terra. Io pongo fine alla mia vita, non tu. E ora, povero piccolo uomo, sii pronto ad esultare. Affila le vigliacche lame. Frena l'impulso del tuo cuore. Sii spietato, cinico e crudele. Fendi bene i tuoi colpi e goditi il plauso del pubblico ammaestrato. E ora, poveri piccoli uomini, siate pronti ad urlare, a bere sangue e mangiare carne viva. Siate pronti a starnazzare come papere e ridere come iene. Siate pronti a versare lacrime di ipocrita umanità. E ora, madre terra, a te mi immolo e sopra te verso il mio sangue. E ora, creatore d'ogni cosa, a te ritorno e dentro di te vengo a riposare. E ora, matador, la mia carica sarà furiosa e la polvere s'alzerà fino al cielo. Vengo sì a morire, ma se non mi ucciderai in un solo colpo, attento, matador, perché assaggerai dolore e morte quando le mie corna ti trafiggeranno lentamente e la forza del mio collo lancerà il tuo stupido ed insignificante corpo verso il sole. Il sole. Com'è bello il sole. Mi accarezza il muso. Mi ricorda pascoli lontani. Ah! Ah! Ah, povero piccolo uomo! Hai colpito! Ma non hai ferito a morte. Prova ancora, e ancora, e ancora. Quello è il mio sangue. Ho freddo. E smettila di urlare, sciocca creatura. Non vedi che mi hai ucciso? Irritante la tua voce, mi stordisce. Ah! Ah! Stupido animale! Ah, sbagli ancora! Hai mancato il cuore. Ah! Ah! Uomo inutile! I tuoi colpi sono sempre più indecisi. La tua forza viene meno. Il sole, dov'è il sole? Il sole mi accarezza il muso. Il mio muso è bagnato. Cos'è questo odore? Questo dunque è il mio sangue. Ho freddo. Non ti sento più. Finalmente taci. Finalmente anche le iene tacciono. Che succede? Dove sei finito, stupido animale? Non ti vedo più. Sei scappato, eh? Il sole. Oh sì, ora lo sento. Ora lo sento. e il mio muso è asciutto. Mi ricordo pascoli lontani. Mi ricordo pascoli lontani. Mi ricordo pascoli lontani. L'istinto assassino dell'essere umano è insito in lui. Dobbiamo smetterla di sentirci diversi da ogni altro animale. Sappiamo tutti, i leoni mangiano i cuccioli, le scimmie sono cannibali, le mantidi religiose uccidono i loro compagni. E poi, per esempio, a me vengono in mente le orche che giocano con le povere foche, con le loro vittime, le sbattono di qua e di là. A noi sembra una cosa estremamente crudele, in realtà fa parte del loro istinto. Anche i gatti spesso giocano con le loro vittime. Io ho visto con i miei occhi un gatto che giocava con un topo. È una scena straziante. Gli esseri umani però hanno qualcosa di diverso. Sì, qualcosa ce l'hanno. Cioè hanno il libero arbitrio. Nel senso che l'essere umano è un po' meno schiavo dell'istinto rispetto a tutti gli altri animali. Quindi l'essere umano è libero di scegliere e sceglie di uccidere. L'uomo contro l'uomo, e abbiamo le guerre in tutto il mondo. Abbiamo situazioni in cui l'uomo è contro la donna. Sappiamo benissimo, purtroppo, quali sono i modi in cui l'uomo riesce a sfogare la sua rabbia sulle donne. In alcuni paesi illegalmente, solo perché qualcuno ha deciso di dettare delle leggi, e in altri paesi invece è assolutamente legale lapidare, impiccare, frustare, infibulare una donna. L'uomo, anzi l'essere umano in generale, riesce ad essere anche violento contro i bambini. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina d'asino al collo e che fosse sommerso in fondo al mare. Beh, questa roba l'ha detta un tale. E ammesso che sia esistito quel tale, guarda caso l'hanno torturato e ucciso, come volevasi dimostrare. E tu come ti senti davanti a tutto questo male? Buono? E cosa fai esattamente per impedire che questo male dilaghi? Umili e offendi i tuoi figli? Massacri tua moglie? O se sei una donna, ferisci tuo marito quasi a morte ad ogni lite? Urli, lo mandi all'ospedale. Pesti a sangue quel povero automobilista che non si era accorto del semaforo rosso. Urli sui tuoi colleghi, non so, ti sfili la cinghia e punisci i tuoi figli per i tuoi peccati. Dimmi cos'è che fai esattamente. Dimmi cosa fai, o quanto ritieni superiore la nostra bella società. Vabbè, dai, basta così. Io ringrazio Nicole per il suo bellissimo intervento iniziale. Ringrazio voi tutti per averci ascoltato. Questa è una puntata molto impegnativa di Radio Rom. E vi do appuntamento alla prossima puntata notturna. Piccole anime perse nella notte. Qui è Ro che vi parla e vi auguro una notte piena di dubbi, perché chi non ha più dubbi ha smesso di esistere già da un po'.